è un paese bello assai, il sole è caldo e non si fredda mai, e il mare azzurro verde è sperlucente, e non si vede mai roba inquinante. Siamo genti felici e stracontenti, non abbiamo bisogno mai di niente. Quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, e come ve lo devo dire, quasi campa d'aria. Mi dicono che al nord la notte è scura, piena di nebbia e piena di paura. Qui invece è giorno chiaro permanente, ma che ci serve a noi questa corrente? Che avete messo a fare sti lampioni, se c'è la luna per illuminazioni? È quasi campa d'aria, quasi campa d'aria. Al sud si campa d'aria, non ci serve il petrolio, non ci serve l'uranio poverino, non ci servono i cibi genericamente mortificati, non ci servono gli hamburger, non ci servono i fast food, perché qua ci abbiamo il sole, lasciatemi stare, qua ci abbiamo il mare, qua ci abbiamo le belle donne e ci abbiamo il pane, ci abbiamo il forno a legna, ci abbiamo il provolone, ci abbiamo la melanzana sott'olio, ci abbiamo il pomodoro piccolo e saporito, ci abbiamo il calzone di cipolla. Sono messi in testa i governanti di industria zialiarci a tutti quanti, ma fatevi fatti vostri che non urgi avere al sud di centri siderurgi. Ma che bisogno c'è di lavorare con sto cielo, sta luna e con sto mare? Quasi campa d'aria, quasi campa d'aria. Compañía.